La palude del diavolo di George Sand, Alberto Peruzzo editore. Capitolo 1. La ratura. La quartina in francese antico posto al di sotto di un quadro di Holbein è di una tristezza profonda nella sua semplicità. La composizione rappresenta un aratore nell'atto di condurre il suo aratro nel mezzo di un campo. Una vasta campagna si stende in lontananza, cosparsa di povere capanne. Il sole tramonta dietro la collina. È la fine di una dura giornata di lavoro. Il contadino è vecchio, tarchiato, coperto di cenci. I quattro cavalli del tiro che egli spinge in avanti sono magri ed estenuati. Il vomere affonda in un suolo gibboso e ribelle. Un solo essere è allegro e in gamba in questa scena di sudore e fatica. È un personaggio fantastico, uno scheletro armato di frusta che corre nel solco di fianco ai cavalli spaventati e li colpisce, facendo così da garzone al vecchio aratore. È la morte. Avevo guardato a lungo e con profonda malinconia l'aratore di Holbein e passeggiavo in campagna, meditando sulla vita campestre e sul destino del coltivatore. Senza dubbio è deprimente spendere le proprie forze e le proprie giornate fendendo il grembo di questa terra gelosa che si fa strappare a fatica i tesori della sua fecondità. Quando un pezzo del pane più nero e rozzo rappresenta alla fine della giornata l'unica ricompensa e l'unico profitto provenienti da un così duro lavoro. Queste ricchezze che coprono il suolo, queste messi, questi frutti, questo bestiame orgoglioso che si ingrassa fra alte erbe, costituiscono la proprietà dei pochi e gli strumenti della fatica e della schiavitù dei molti. Il padrone, in generale, non ama per loro stessi né i prati né lo spettacolo della natura, né gli animali superbi che devono convertirsi in monete d'oro per il suo uso. Egli cerca un po' d'aria e di salute nel soggiorno in campagna, poi torna a spendere nelle grandi città il frutto del lavoro dei suoi vassalli. Dal canto suo, il lavoratore è troppo oppresso, troppo misero e troppo spaventato per l'avvenire, per gioire della bellezza delle campagne e del fascino della vita rustica. Anche per lui, i campi dorati, i bei prati, gli animali superbi rappresentano sacchi di scudi dei quali non avrà che una minima parte, insufficiente ai suoi bisogni. Tuttavia, ogni anno, bisogna riempire quei sacchi maledetti per soddisfare il padrone e pagargli il diritto di vivere con parsimonia e in miseria sulla sua proprietà. Eppure la natura è eternamente giovane, bella e generosa, dona poesia e bellezza a tutti gli esseri, a tutte le piante, a tutto ciò che viene lasciato crescere liberamente al suo contatto. Essa possiede il segreto della felicità e niente nessuno ha saputo mai sottrarglielo. Il più felice degli uomini sarebbe colui che, possedendo la scienza del proprio lavoro e lavorando con le proprie mani, attingendo il benessere e la libertà dall'esercizio della propria forza intelligente, avrebbe il tempo di vivere con il cuore e la mente, di comprendere la propria opera e di amare quella di Dio. L'artista prova gioie di questo genere nella contemplazione e la riproduzione delle bellezze della natura, ma vedendo il dolore degli uomini che popolano questo paradiso in terra, l'artista dal cuore leale e umano si sente turbato pur nella sua gioia. La felicità risiederebbe laddove, lavorando la mente, il cuore e le braccia uniti sotto lo sguardo della provvidenza, una santa armonia esisterebbe tra la munificenza di Dio e l'estasi dell'animo umano. E sarebbe allora che, invece della morte penosa e ripugnante, che cammina nel solco con la frusta in mano, il pittore di allegorie potrebbe raffigurare un angelo radioso che seminasse a piene mani il grano benedetto sul solco fumante. E non è difficile capire che il sogno di un'esistenza dolce, libera, poetica, laboriosa e semplice per l'uomo dei campi debba essere relegato fra le chimere. Le parole tristi e dolci di Virgilio o «l'uomo dei campi sarebbe felice se conoscesse la sua felicità» è un rammarico, ma come tutti i rammarichi è anche una predizione. Verrà il giorno in cui il contadino potrà essere anche artista, se non per esprimere, il che allora importerà molto poco, almeno per sentire il bello. Non si crede forse che questa misteriosa intuizione della poesia sia già in lui allo stato di istinto e di indefinita fantasticheria? In coloro che sono già protetti da un po' di agiatezza e in coloro in cui l'eccesso di infelicità non soffoca ogni sviluppo morale e intellettuale, la felicità pura, sentita e apprezzata è allo stato elementare. E d'altra parte, se voci di poeti si sono già levate dal grembo del dolore e della fatica, perché si dovrebbe dire che il lavoro delle braccia esclude le funzioni dell'animo? Probabilmente tale esclusione è il risultato generale del lavoro eccessivo e di una miseria profonda. Ma che non si dica che quando l'uomo lavorerà moderatamente con profitto, ci saranno solo cattivi lavoratori e cattivi poeti. Colui che attinge nobili gioie dal sentimento poetico è un vero poeta, anche se non ha scritto un solo verso in tutta la vita. I miei pensieri avevano preso questo corso e non mi accorgevo che questa fiducia nella possibilità di educare l'uomo era rafforzata in me da influenze esterne. Camminavo sul margine di un campo che dei contadini stavano preparando per la semina. L'arena era ampia come quella del quadro di Holbein. Il paesaggio esteso comprendeva lunghe strisce di verzura, divenuta un po' rossiccia all'approssimarsi dell'autunno. Un vasto terreno di un bruno vigoroso, dove le piogge recenti avevano lasciato in alcuni solchi rivoli d'acqua che il sole faceva brillare come sottili fili d'argento. La giornata era chiara e tiepida e la terra arata di fresco esalava un vapore leggero. Nel campo, in lontananza, un vecchio, le cui spalle larghe e il viso severo ricordavano quello del quadro di Holbein, ma i cui abiti non rivelavano miseria. Spingeva gravemente il suo aratro di forma antica trascinato da due buoi tranquilli dal manto scialbo, veri e propri patriarchi dei prati, alti, un po' magri, con le corna lunghe ripiegate, vecchi lavoratori che l'abitudine ha reso fratelli, come vengono chiamati dalle nostre parti, e che privati l'uno dell'altro, rifiutano un nuovo compagno di lavoro e si lasciano morire di dolore. Chi non conosce la vita campestre ritiene una fandonia questa amicizia di un bue per il suo compagno di tiro. Dovrebbe allora venire a vedere, in un angolo oscuro della stalla, un povero animale estenuato che si batte la coda inquieta sui fianchi scarni, soffiando con terrore e sdegno sul cibo che gli si presenta, con gli occhi sempre rivolti alla porta, tastando con lo zoccolo il posto vuoto accanto a sé. Fiutando i giogli e le catene che il compagno ha portato e invocandolo incessantemente con muggiti funesti. Il bovaro dirà: è una coppia di buoi persa. Suo fratello è morto e questo non lavorerà più. Bisognerebbe poterlo ingrassare per abbatterlo, ma non vuol mangiare e sarà presto morto di fame. Il vecchio oratore lavorava lentamente, in silenzio e senza sforzi inutili. La sua docile coppia di buoi non si affrettava più di lui, ma grazie alla continuità di un lavoro senza distrazioni e di un dispendio di forze sicuro e sostenuto, il suo solco era scavato con la stessa rapidità di quello di suo figlio, che conduceva a una certa distanza quattro buoi meno robusti in una vena di terreno più dura e sassosa. Tuttavia, ciò che attirò in seguito alla mia attenzione fu uno spettacolo veramente bello, un nobile soggetto per un pittore. All'altra estremità del campo arabile, un giovane di bell'aspetto conduceva quattro magnifiche coppie di giovani animali dal manto nero con fulvestriature e riflessi di fuoco. Le teste tozze e crespe che rivelavano il toro selvaggio che erano stati, i grossi occhi scontrosi, i movimenti bruschi, il modo nervoso e a scatti di lavorare che si irrita ancora al giogo e al pungolo. Essi obbedivano frementi di collera alla nuova dominazione loro imposta. Si trattava di quelli che si definiscono buoi legati di fresco. L'uomo che li guidava doveva disossare un pezzo di terreno recentemente abbandonato al pascolo e pieno di ceppi d'albero molto vecchi. Lavoro d'atleta, al quale erano appena sufficienti la sua energia, la sua giovinezza e i suoi otto animali quasi indomiti. Un bambino di 7-8 anni, bello come un angelo e con le spalle coperte sopra la blusa da una pelliccia d'agnello che lo faceva somigliare al piccolo San Giovanni Battista dei pittori del Rinascimento, camminava nel solco parallelo all'aratro e pungeva il fianco dei buoi con una verga lunga e leggera, munita di un pungiglione poco acuminato. I fieri animali fremevano sotto la piccola mano del bambino e facevano cigolare i giogi e le corregge legati sulla loro fronte, imprimendo scosse violente al timone. Quando una radice intralciava il vomere, l'aratore gridava con una voce potente, chiamando ogni bestia per il proprio nome, ma piuttosto per calmarle che per incitarle, perché i buoi, irritati da quel brusco impedimento, sobbalzavano, scavando la terra con i loro piedi forcuti e si sarebbero slanciati di fianco, portando con loro l'aratro per i campi, se con la voce e il pungolo il giovane non avesse trattenuto i primi quattro, mentre il bambino conduceva gli altri quattro. Gridava anche il poveretto con una voce che voleva rendere terribile e che restava invece dolce come il suo viso angelico. Tutto ciò era bello, per forza e grazia. Il paesaggio, l'uomo, il bimbo, i tori sotto il giogo, e malgrado quella lotta poderosa che vedeva la sconfitta della terra, una sensazione di dolcezza e di calma profonda sovrastava ogni cosa. Superato l'ostacolo, gli animali riprendevano il loro passo regolare e solenne e l'aratore, la cui violenza simulata non era che una prova di forza e un dispendio di energie, ritrovava immediatamente la serenità delle anime semplici e lanciava uno sguardo di soddisfazione paterna sul figlio, che si voltava per sorridergli. Poi, la voce maschile di quel giovane padre di famiglia intonava il canto solenne e malinconico che l'antica tradizione del paese trasmette. Non a tutti gli aratori indistintamente, ma ai più esperti nell'arte di incitare e di mantenere l'ardore dei buoi al lavoro. Quel canto, la cui origine fu forse ritenuta sacra e al quale misteriose influenze dovevano essere state probabilmente attribuite molto tempo prima, ha tuttora la reputazione di possedere il potere di alimentare l'energia e la volontà di quegli animali, di calmare la loro insofferenza e di mitigare la noia del loro lungo e duro lavoro. Non basta saperli ben condurre tracciando un solco perfettamente rettilineo, lenire la loro fatica sollevando o affondando il ferro nella terra al momento opportuno. Non si è un perfetto oratore se non si sa cantare ai buoi, e questa è un'arte speciale che esige un gusto e dei mezzi particolari. A dire il vero, questo canto non è che una sorta di recitativo interrotto e ripreso a piacere. La sua irregolarità e le sue intonazioni stonate, secondo le regole dell'arte musicale, lo rendono intraducibile. Nondimeno, è un bel canto, è talmente adatto alla natura del lavoro che accompagna, all'andatura del bue, alla calma dei luoghi agresti, alla semplicità degli uomini che le intonano, che nessun genio estraneo al lavoro della terra avrebbe potuto inventarlo e che solo un esperto aratore di questa contrada saprebbe eseguirlo. Nei periodi dell'anno durante i quali non c'è altro lavoro e altro movimento nella campagna che quello dell'aratura, questo canto così dolce e potente si leva come la voce della brezza, alla quale la sua specifica tonalità attribuisce una somiglianza. La nota finale di ogni frase, tenue e tremolante, con una lunghezza e un'incredibile potenza di fiato, sale di un quarto di tono stonando sistematicamente. Ciò è selvaggio, ma un fascino indicibile, e quando ci si è abituati a sentirlo, non si concepisce che un altro canto possa librarsi a quelle ore e in quei luoghi senza sciuparne l'armonia. Capitava dunque che io avessi sotto gli occhi un quadro che contrastava con quello di Holbein, sebbene si trattasse di una scena simile. Invece di un triste vecchio, vedevo un uomo giovane e gagliardo. Invece di un tiro di cavalli sfiancati e spossati, una doppia quadriga di buoi robusti e ardenti. Invece della morte, un bel bambino. Invece di un'immagine di disperazione, di un'idea di morte, uno spettacolo di energia e un'impressione di felicità. Fu allora che mi vennero in mente la quartina francese. À la sueur de ton visage, nel sudore del tuo viso, e il O fortunatos, Agricolas di Virgilio, e che vedendo quella coppia così bella, l'uomo e il bambino, svolgere in condizioni tanto poetiche, con tanta grazia unita a forza, un lavoro pieno di grandezza e di solennità, provai una profonda pietà mista a un rispetto involontario. Felice il contadino. Sì, sicuramente lo sarei anch'io al suo posto, se il mio braccio divenuto improvvisamente robusto e il mio petto fattosi vigoroso potessero così fecondare e cantare la natura. Sicuramente senza che i miei occhi cessassero di vedere, il mio cervello di comprendere l'armonia dei colori e dei suoni, la finezza dei toni e la grazia dei contorni, in breve, la bellezza misteriosa delle cose. E soprattutto, senza che il mio cuore cessasse di essere in relazione con il sentimento divino che ha presieduto alla creazione immortale e sublime. Ma, ahimè, quell'uomo non ha mai compreso il mistero del bello. Quel bambino non lo comprenderà mai. Dio mi preservi dal credere che siano inferiori agli animali che dominano e che non abbiano a momenti una specie di rivelazione estatica che allevia la loro fatica e assopisce le loro preoccupazioni. Vedo sulle loro nobili fronti il sigillo del Signore, perché sono nati re della terra molto più di coloro che la possiedono per averla pagata. E la prova che essi lo sentono è che non si potrebbe espatriarli impunemente, è che amano quel suolo irrigato con il loro sudore, è che il vero contadino muore di nostalgia sotto la bardatura del soldato, lontano dal campo che l'ha visto nascere. Ma a quell'uomo manca una parte dei godimenti che io possiedo, godimenti materiali che gli sarebbero ben dovuti a lui, l'operaio del vasto tempio che il cielo è abbastanza ampio per abbracciare. Gli manca la conoscenza del proprio sentimento. Coloro che l'hanno condannato alla servitù sin dal ventre di sua madre, non potendo togliergli l'immaginazione, gli hanno tolto la riflessione. Ebbene, così com'è, incompleto e condannato a un'eterna infanzia, egli è ancora più bello di colui nel quale il sapere ha soffocato il sentimento. Non elevatevi sopra di lui. Voi altri che vi credete investiti del diritto legittimo e inalienabile di comandarlo. Poiché questo errore spaventoso in cui cadete prova che la vostra mente ha ucciso il vostro cuore e che siete più incompleti e più ciechi degli uomini. Preferisco la semplicità del suo animo alle false luci dei vostri, e se dovessi raccontare la sua vita, il piacere che trarrei nel farne affiorare i tratti dolci e toccanti, sarebbe superiore al merito che ricavereste voi nel descrivere l'abiezione in cui lo possono gettare la durezza e lo sdegno dei vostri principi sociali. Conoscevo quel giovane uomo e quel bel bambino, sapevo la loro storia, perché infatti ne avevano una, ognuna la sua, e ognuno potrebbe interessare al romanzo della propria vita se l'avesse capito. Sebbene contadino e semplice aratore, Germain si era reso conto dei suoi doveri e dei suoi affetti. Me li aveva raccontati ingenuamente, chiaramente, e io l'avevo ascoltato con interesse. Quando l'ebbi osservato arare piuttosto a lungo, mi domandai perché la sua storia non avrebbe potuto essere scritta, malgrado fosse una storia così semplice, così retta e così poco intricata, come il solco che tracciava con il suo aratro. L'anno prossimo, questo solco sarà colmato e coperto da un nuovo solco. Così si imprime e sparisce la traccia della maggior parte degli uomini nel campo dell'umanità. Un po' di terra la cancella e i solchi che abbiamo scavato si succedono gli uni agli altri come le tombe nei cimiteri. Il solco dell'aratore non vale forse quello dell'ozioso, che ha tuttavia un nome che resterà, se per una singolarità o un'assurdità qualunque. Egli attirerà un po' di attenzione su di sé. Ebbene, strappiamo al nulla dell'oblio, se possibile, il solco di Germain, l'esperto aratore. Non ne saprà niente e non se ne arrabbierà, ma io avrò provato un certo piacere nel tentare. Capitolo 2. Papà Maurice. Germain, gli disse un giorno suo suocero, bisogna comunque che tu ti decida a riprendere moglie. Saranno presto 2 anni che sei rimasto vedovo di mia figlia e tuo figlio maggiore ha 7 anni. Ti avvicina la trentina, ragazzo mio, e sai bene che passata quell'età un uomo è considerato troppo vecchio per riformarsi una famiglia. Hai 3 bei bambini e finora non ci sono stati d'impiccio. Mia moglie e mia nuora li hanno curati come meglio hanno potuto e li hanno amati come giusto. Ecco che Petit Pierre ha ricevuto un'educazione quasi completa. Se la cava piuttosto bene a pungolare i buoi. Ci si può fidare a lasciargli curare le bestie al pascolo ed è abbastanza forte da portare i cavalli all'abbeveratoio. Non è dunque lui che ci preoccupa, ma gli altri due, che tuttavia amiamo, lo sa Dio quanto. Quest'anno i poveri innocenti ci hanno dato molto da pensare. Mia nuora è vicina a partorire e ha già un piccolo tra le braccia. Quando quello che attendiamo sarà venuto, lei non potrà più occuparsi della tua piccola Solange e soprattutto del tuo Sylvain, che non ha ancora 4 anni e non sta mai fermo né il giorno né la notte. È vivace come te, diventerà un buon lavoratore, ma è un bambino terribile. Mia moglie non corre più abbastanza forte per acchiapparlo quando scappa dalla parte del fosso e si butta tra le zampe delle bestie. E poi con quell'altro che mia nuora sta per mettere al mondo, del suo penultimo sarà mia moglie a doversene occupare almeno per un anno. Dunque, i tuoi figli ci preoccupano e ci danno troppo lavoro. Non ci piace vedere dei bambini malcurati e quando pensiamo agli incidenti che possono loro capitare per un'insufficiente sorveglianza, non ci diamo proprio pace. Quindi ti necessita un'altra moglie e a me un'altra nuora. Pensaci, ragazzo mio, ti ho già avvertito più volte, il tempo passa, gli anni non ti attenderanno. Tu devi ai tuoi bambini e anche a noi che desideriamo che tutto vada bene nella famiglia, sposarti al più presto. Ebbene, padre, rispose il genero, se lo volete assolutamente, bisognerà dunque che vi accontenti. Ma non posso nascondervi che ciò mi procurerà molto dolore e che non ne ho affatto più voglia che di annegare. Si conosce chi si perde, ma non chi si trova. Avevo una moglie brava e bella, dolce, coraggiosa, buona con suo padre e sua madre, buona con suo marito, con i suoi figli, lavoratrice nei campi come in casa, abile nelle faccende, insomma, brava in tutto. E quando me l'avete data, quando l'ho presa, non avevamo previsto che io fossi arrivato fino a dimenticarla se avessi avuto la disgrazia di perderla. Le tue parole sono molto buone, Germaine, ricominciò papà Maurice. So che hai amato mia figlia, che l'hai resa felice, che se avessi potuto contentare la morte andandotene al suo posto, adesso Catherine sarebbe viva e al cimitero ci saresti tu. Meritava veramente il tuo amore a quel punto, e se tu non te ne fai una ragione, non potremo farcela nemmeno noi. Ma non ti dico di dimenticarla. Il buon Dio ha voluto che lei ci lasciasse e non passa giorno in cui non le facciamo sapere attraverso le preghiere, i nostri pensieri, le nostre parole, le nostre azioni, che rispettiamo il suo ricordo e che siamo addolorati della sua dipartita. Ma se potesse parlarti dall'altro mondo e farti conoscere la sua volontà, ti inciterebbe a cercare una madre per i suoi piccoli orfanelli. Si tratta dunque di incontrare una donna che sia degna di sostituirla. Non sarà molto facile, ma non è impossibile. E quando noi te l'avremo trovata, l'amerai come amavi mia figlia, perché sei un uomo onesto e le sarai grato di esserci utile e di amare i tuoi bambini. E va bene, papà Maurice, disse Germaine, seguirò la vostra volontà come ho sempre fatto. Bisogna davvero convenire, figliolo, che hai sempre ascoltato l'affetto e le buone ragioni del tuo capofamiglia. Pensiamo dunque insieme alla scelta della tua nuova moglie. Innanzitutto, non sono del parere che tu prenda una donna molto giovane, non è quello che fa per te. La giovinezza è leggera e siccome allevare 3 bambini è un peso considerevole, soprattutto quando sono di un altro letto, ci vuole una buona donna saggia, molto dolce e portata al lavoro. Se tua moglie non avrà circa la tua stessa età, non sarà abbastanza prudente se accetterà un tale compito. Ti considererà troppo vecchio e i tuoi figli troppo giovani. Si lamenterà e i tuoi bambini soffriranno. È proprio questo che mi preoccupa, disse Germaine. E se questi poveri bambini venissero maltrattati, detestati, battuti? Dio non voglia, ricominciò con foga il vecchio. Ma nel nostro paese le donne cattive sono più rare di quelle buone e bisognerebbe essere matti per non scegliere quella che conviene. È vero, padre, ci sono delle brave ragazze nel nostro paese. C'è la Louise, la Sylvain, la Claudie, la Marguerite, infine, quella che vorrete. Piano, piano, ragazzo mio, tutte queste fanciulle sono troppo giovani o troppo povere o troppo graziose. Perché, insomma, bisogna pensare anche a questo, figliolo. Una bella donna non è sempre giudiziosa come un'altra. Volete dunque che ne prenda una brutta? Chiese Germaine un po' inquieto. No, non brutta, perché questa donna ti darà altri bambini e non c'è niente di così triste che avere bambini brutti, deboli e malaticci. Ma una donna ancora fresca, di buona salute e che non sia né bella né brutta, farebbe proprio al caso tuo. Capisco, fece Germaine sorridendo un po' tristemente, che per averla come la volete voi bisognerà farla fare apposta. Tanto più che non la volete povera e che quelle ricche non sono facili da ottenere, soprattutto per un vedovo. E se fosse vedova anche lei, Germain? Via! Una vedova senza figli e con una buona rendita! Per il momento non ne conosco nella nostra parrocchia. E neanch'io. Ma ce ne sono altrove. Avete qualcuno in vista, padre? Allora ditemelo subito!